questa storia che lei la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore. Senza gloria.